William Piana, Rachele Copparoni al Mambo di Bologna insieme al direttore Lorenzo Balbi. Buongiorno e grazie della disponibilità, ben ritrovato. Grazie, grazie a voi, buongiorno a tutti. Come si riprende allora? E poi un inizio particolare, ci può spiegare un po' questa genesi o rigenesi? Ma sì, in realtà mi piace pensare che Mambo non abbia mai chiuso, perché l'anno scorso con il nuovo Forno del Pane, la mostra di Aldo Giannotti, abbiamo già tentato una ripartenza usando forse ogni tanto impropriamente il termine post-pandemico, un po' forse avventato, forse era meglio trans-pandemico. Questa è la mostra che inauguriamo oggi, quindi la personale di Italo Zuffi, Fronte Retro, e continua un po' questa indagine anche sulle possibilità che ci diamo in questo particolare momento, e soprattutto l'idea di dare spazio agli artisti che interrogano anche la relazione tra persone e come questa relazione tra persone è cambiata nei gesti quotidiani, nei gesti che tutti noi compievamo prima con un certo tipo di consapevolezza e che adesso inevitabilmente cambiano un po' le relazioni tra persone. Italo Zuffi è un artista italiano molto noto, uno dei protagonisti di questa generazione di artisti nata alla fine degli anni 60, inizio 70, è un artista che possiamo definire anche a noi vicino, perché è nato a Imola nel 1969 e ha sicuramente avuto una carriera proprio per le sue scelte di materiali diversi e di sperimentazione totale sulle possibilità dell'arte, un po' anche se vogliamo da cosiddetto outsider, quindi entrato, uscito dalle gallerie, si è posto sempre in una posizione anche critica rispetto al sistema dell'arte. E ci piaceva proporre un'ampia retrospettiva del suo lavoro con oltre 50 opere che vanno dal 1997 al 2020, proprio per dare al pubblico la possibilità di indagare le varie vicissitudini di questa carriera e gli esiti di questa così interessante ricerca. Si può definire adesso il termine underdog, no? Sottovalutato, ma visto che ha detto uno outsider. Sì, assolutamente. Io credo che sia anche interessante come Italo Zuffi abbia ricercato di trovare un posizionamento della sua pratica e del suo lavoro all'interno di un sistema che è un posizionamento critico, ma dove la sua relazione tra appunto il proprio lavoro, la propria produzione artistica e il sistema diventa esso stesso terreno di indagine per delle opere. Quindi in mostra ci sono molte opere che lui riassume sotto l'etichetta di opere sulla competizione, in cui proprio l'essere artista, il doversi misurare col sistema e con varie, possiamo dire, vari step che sembrano obbligati nella carriera di un artista, diventano terreno di indagine. Quindi ad esempio la sua relazione con note gallerie diventa il centro di opere, la sua relazione con curatori o la mancata relazione con curatori. Quindi ecco che l'artista si impossessa dei cataloghi, delle mostre in cui voleva esporre o avrebbe pensato che una sua opera fosse perfetta e inserisce le proprie opere dentro i cataloghi in cui non era presente. Oppure questi CD che la galleria preparava per Francesco Bonami in ottica della preparazione della sua Biennale di Venezia, che lui si domanda se fossero mai stati mandati, visto che poi Bonami alla Biennale non l'ha invitato, diventano la base per questi foulard che sono proprio al centro di una sua performance. Quindi questo suo è necessario dover trovare una posizione all'interno di un sistema che ogni tanto è una posizione scomoda, lui cerca di ribaltarlo facendo diventare un terreno di indagine e di possibile sperimentazione. Durante l'opening domani sera avremo anche una performance con i Madcaps, questo gruppo bolognese che proprio suonerà queste famose liste di artisti, no? In cui tutti ci si va a cercare nella lista, ci sono, non ci sono, in che posizione sono i più importanti dell'anno. Ecco, lui ribalta questa tensione che gli artisti hanno, che gli addetti ai lavori, ma anche i curiosi vanno a vedere nelle liste, ci sono in tutte le categorie, ma nell'arte sono molto presenti, e lo fa diventare una canzonetta. Quindi questa lista, le liste di questi artisti diventano questa litania canzonetta che questo gruppo ripropone al pubblico. Questa idea di playlist in tutto, di classifica, di podio, di elenco. Esatto. Questa idea proprio di dover sempre essere parte di una classifica, in che posizione, dover migliorare le proprie posizioni, questa artista la derubrica e la fa diventare appunto scherno e critica. Esatto, musica leggera. Ah, okay. E questa mostra sarebbe dovuta essere inserita all'interno di Art City, di Arte Fiera, quindi di questo grande circuito che purtroppo sappiamo che è stato rinviato, rimandato. E come mai la scelta invece a Mambo di continuare, di aprire? Sì, grazie che mi fai questa domanda perché mi offre l'opportunità di parlare del formato di questa mostra, che è appunto Fronte Retro, il titolo di questa mostra, proprio perché è pensata in due momenti. Quindi c'è un retro, che è la retrospettiva, quindi questa grande mostra antologica che inauguriamo adesso a Mambo, che appunto fa una panoramica sul lavoro di Italo Zuffi, e poi c'è il fronte, quindi le nuove opere. E queste nuove opere, nuove produzioni che siamo riusciti a commissionare, a far realizzare a Italo Zuffi, anche grazie al fondamentale aiuto della Banca di Bologna, saranno presentate nella sede di Palazzo dei Toschi in occasione della prossima Arte Fiera, Art City. Quindi questa sarà una mostra un po' staffetta, diciamo, in cui passa il testimone. Esatto, la mostra del Mandobo passerà il testimone a una mostra di nuove produzioni di Italo Zuffi alla Banca di Bologna. Questo proprio per dare l'idea che i musei sono anche luoghi di produzione, e quindi queste grandi mostre sono anche l'occasione per gli artisti per progredire e commissionare e produrre nuovi lavori. Grazie direttore, sempre un piacere dialogare con lei. Piacere mio, alla prossima occasione quindi. Grazie. Grazie.